sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città, è per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola, è per te il 13 dicembre, è per te la campanella a scuola, è per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te che a volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, è per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, è per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, è per te il succo delle mele, è per te il rosso delle fragole, è per te ogni cosa che c'è in anima. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te il profumo delle stelle, per te il miele e la farina, è per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, è per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, è per te una maglietta a righe, è per te la chiave dei segreti, è per te ogni cosa che c'è in anima. È per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te il dubbio e la certezza, la forza e la dolcezza, è per te che il mare sa di sale, per te la notte di Natale, è per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. È per te ogni cosa che c'è.